2024 di Enrico Pagliarini. Le 15:32 minuti, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro numero verde subito per iniziare, 824-0024. Io sono Enrico Pagliarini, oggi c'è Pietro Lacorte che si occupa della parte tecnica. Vi ricordo che anche questa puntata sarà disponibile attraverso il nostro sistema podcast. Iniziamo questa puntata con una voce, quella di Michael Lazaridis. I'm Mike Lazaridis, founder of Research in Motion. Il capo della Research in Motion, la RIM, ovvero il produttore dei BlackBerry, Lazaridis, in un video pubblicato su YouTube che potete guardare e ascoltare, a metà di questa settimana si è scusato per il disservizio più grave mai accaduto nei 12 anni di vita della RIM. Questa settimana alcuni dei 70 milioni di utenti di questo servizio hanno avuto problemi nella ricezione delle email in Europa, India, Africa, Medio Oriente e parte del Sud America. C'è stato un guasto ad uno dei data center della RIM vicino a Londra, del quale la stessa società ha dichiarato di non avere ancora compreso per bene le ragioni. C'è stato un problema hardware e anche i sistemi di backup hanno fatto, potremmo dire, cilecca. In questo caso la forza dell'infrastruttura BlackBerry, cioè quella di gestire l'intero flusso di email in pochi punti del mondo, si è trasformata in un problema. Questo sistema, l'abbiamo detto più volte, è molto sicuro ed è la base del successo di BlackBerry, ma naturalmente le vulnerabilità si concentrano in pochi punti e se cadono questi accade quello che in molti hanno sperimentato in questi giorni. C'è una notizia che riguarda i problemi, i progetti per, anche i problemi naturalmente, per la riduzione del digital divide in Italia e la costruzione di un nuovo network in fibra ottica. I famosi oramai 800 milioni di fondi di cui si parlava in questi giorni sono stati dirottati ad altri capitoli di spesa. Da dove arrivavano questi soldi? Ricordiamo che col passaggio alla TV digitale terrestre si stanno liberando alcune frequenze che si è deciso di mettere all'asta per nuovi servizi di telefonia mobile. Speriamo che queste frequenze vengano liberate. Comunque sono state vendute, si pensava di incassare 2,4 miliardi, ne sono arrivati invece quasi 4, 1,6 in più del previsto. Il ministro Romani aveva promesso che almeno la metà di questo extra gettito sarebbe andato a progetti per diffondere internet a banda larga in modo particolare, invece nulla da fare. Ora potrebbe farsi largo un'ipotesi di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa, cioè l'idea che la rete la costruiscano i privati guidati da MetroWeb, controllata dal fondo F2I, che a sua volta è partecipato al 16% della Cassa Depositi e Prestiti. L'idea c'è, va verificato poi se ci sono anche i soldi, ci saranno anche i soldi, e che condizioni i privati siano disposti ad investire qualche miliardo, perché gli 800 milioni di cui si parlava servirebbero, sì e no, a tappare qualche buco in zone in digital divide, ma in realtà per fare una copertura di una parte consistente di tutto il paese servirebbero almeno, c'è chi dice 12, 15, addirittura 20 miliardi di euro. Pensate, giusto per avere un'idea, che il progetto lanciato dalla Lombardia vale 1,3 miliardi di euro e coprirebbe il 50% delle case. Adesso abbiamo alcune notizie della settimana. Digital News. Da ieri è in vendita in 7 paesi del mondo il nuovo iPhone 4S. Secondo molti analisti le vendite potrebbero arrivare a 4 milioni battendo il record degli esordi precedenti. Risultati spinti soprattutto dalle vendite negli Stati Uniti, dove per la prima volta ci sono tre operatori mobili a vendere il telefono: AT&T, lo storico partner di Apple, e poi Verizon Wireless e anche Sprint. I paesi coinvolti sono Stati Uniti, Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone e Gran Bretagna. Altri 22 paesi, compresa l'Italia, dovranno attendere fino al 28 ottobre. Già disponibili invece per tutti l'aggiornamento al sistema operativo, la versione numero 5 e il servizio iCloud. La novità più interessante del nuovo smartphone dell'Apple è l'interfaccia vocale molto avanzata di cui abbiamo parlato la scorsa settimana 2024. Non è ancora disponibile in lingua italiana, si chiama Siri. quello dell'interazione vocale, della capacità di sintesi vocale, di comprensione della voce, è un nuovo terreno di competizione tra gli operatori. Non è un caso che Google questa settimana abbia lanciato anche in italiano la funzione traduttore per i telefoni con sistema operativo Android. Si parla in italiano e il telefono traduce in inglese o in una delle altre 12 lingue, naturalmente anche viceversa. Questo servizio è gratuito. Digital News. Un ragazzo di 22 anni di Milano, Valerio Alessandro Sizzi, ha vinto il concorso per il remix di Nokia Tune, la più famosa delle suonerie per telefono, sicuramente uno dei suoni della tecnologia più famosi. Ecco il risultato. Altre notizie della settimana. Nel 2011 il mercato italiano della pubblicità su internet dovrebbe chiudere con una crescita del 15% rispetto all'anno precedente, con un giro d'affari di circa 1,2 miliardi di euro. I dati sono stati diffusi durante lo IAB Forum di questa settimana, che ha riunito a Milano i player del settore. Secondo una stima dell'associazione, nel 2012 il fatturato della pubblicità online potrebbe diventare secondo dopo quello della TV, che continua a scendere, fortunatamente dico io. Negli ultimi 5 anni ha fatto un bel meno 12%, quello della carta meno 28%, mentre la radio è cresciuta di oltre il 9%, il web ha registrato una crescita del 46%. Le vendite di computer nel mondo sono cresciute nel terzo trimestre dell'anno del 3,2% rispetto allo stesso periodo 2010, secondo una stima preliminare fatta da Gartner, raggiungendo quota 91,8 milioni di unità. HP rimane il principale produttore di PC con una quota del 17,7%, in crescita del 5,3%, Lenovo, che schizza di oltre il 25%, è al secondo posto con una quota del 13,5%, Dell terzo con l'11,6% del mercato, e Acer, crollata del 23%, scivola in quarta posizione con il 10,6%. Asus ha una quota del 6,2% e tutti gli altri produttori rappresentano circa il 40% del mercato mondiale dei computer. Vi ricordo che oggi parleremo di Linux, allora vi invito a chiamarci al nostro numero verde 800 24 0024. Abbiamo naturalmente anche gli sms che potete utilizzare, 349 238 6666, oppure se volete potete entrare nella nostra pagina Facebook cercandoci 2024, o anche inviarci una email al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Adesso parliamo di internet via satellite. Alcuni ascoltatori con una certa regolarità, non gli stessi ascoltatori, ma alcuni ci scrivono lamentandosi del fatto che o non hanno la DSL o comunque hanno difficoltà a collegarsi ad internet. Visto che ormai questo tipo di collegamento è diventato molto importante, per alcuni fondamentale, anche noi a 2024 con una certa regolarità parliamo delle alternative quando non c'è la DSL. Lo ricordiamo, il cavo è sempre da preferire quando esiste, ma quando non c'è possiamo sfruttare varie tecnologie via radio. Ricordiamo gli operatori, ad esempio, che offrono connessioni Hyperlan o e WiMAX, e naturalmente gli operatori di telefonia in primis. C'è anche però il satellite. Oggi ne parliamo perché da pochi mesi è attivo un nuovo grande satellite che è stato progettato proprio per internet, lanciato da Eutelsat. Saluto Walter Munnarini, che è direttore generale di Open Sky. Benvenuto 2024. Grazie mille, buongiorno a tutti. Open Sky è una società che vende servizi di connettività internet via satellite su piattaforma Eutelsat. Esatto, giusto? Siamo il negozio specializzato di internet via satellite. Allora, noi oggi vogliamo parlare di questa novità. Dicevo, è una sorta di discontinuità tecnologica, perché già in passato noi abbiamo parlato della possibilità di collegarsi ad internet sfruttando il satellite, ma forse potremmo dire che fino a qualche tempo fa, fino a qualche mese fa, questa cosa era un po' forse poco performante, era proprio, diciamo, l'ultima spiaggia. Sì. quando uno non aveva alternative andava sul satellite. Erano sempre stati usati satelliti per la televisione, adattati all'uso di trasmissione dati, camuffati da internet, diciamo. E invece figlio dei tempi, ormai internet è come l'acqua, luce e il gas da casa, è stato progettato un satellite apposta per internet, nato per internet, ottimizzato per i dati. Paradossalmente andrebbe male per la televisione, e ha richiesto, forse è il primo andato in orbita di questo tipo, e ha richiesto una progettazione molto lunga, e è andato in orbita il 26 di dicembre del 2010, quindi sotto l'albero di Natale. Esatto. Senta, che cosa cambia dal punto di vista tecnologico? Perché ho detto che è una discontinuità tecnologica, una novità fatta proprio per collegarsi ad internet, punto e basta. Il principio di fondo è molto semplice: quando uno naviga in internet naviga per se stesso, quindi ognuno ha il suo proprio traffico e la sua propria navigazione, quindi non esiste il concetto di broadcast, cioè di trasmissione a tutti, come invece succede nella televisione. Allora, una volta i satelliti televisivi cercavano di illuminare più una regione più ampia possibile, perché quando trasmetti ovunque. Sì, questo di solito l'antenna di un satellite coperti tutta Europa. Esatto. Tutta Europa, un unico segnale tutta Europa, e questo va benissimo. E però per internet questo è uno spreco, perché se io sono a Milano e trasmetto e voglio navigare da Milano, la stessa frequenza la sto occupando anche a Parigi, in tutti i posti. Quindi l'uovo di Colombo è stato quello di progettare un satellite a copertura cellulare. Quindi invece di avere un unico grande spot, in realtà ne ha tantissimi, circa una novantina. È un po' la stessa filosofia con cui sono nate le reti cellulari. Ovviamente progettarla, poi al di là del concetto, progettarla per un satellite ha richiesto uno studio apposta, delle frequenze apposta. Infatti la frequenza KA, da cui il nome è KSAT, è una frequenza opportuna e molto idonea a questo tipo di architettura. È una cosa sicuramente complicata, perché stiamo parlando di una macchina che ha 36.000 km di altezza, quindi non è vicinissima, quindi puntare su un'area che è grande grosso modo come una regione, sì, giusto per capirci, è insomma, un esercizio di precisione molto interessante. In questo modo voi, diciamo, rendete più efficiente la trasmissione, e il risultato finale è quello di poter servire molti più clienti, giusto? Servirne di più, quindi numero totale della piattaforma di clienti da gestire, con prestazioni più alte e un prezzo più basso. Un'alchimia difficile. Senta, per il consumatore finale, mettiamo il caso che io sia l'utilizzatore di questo servizio, innanzitutto di cosa ho bisogno per navigare sfruttando il satellite, e soprattutto quali sono le performance? Giustissimo, perché tutta la complessità del satellite e della piattaforma va nascosta, viene gestita da Eutelsat e Skylogic, che sono le aziende che lo gestiscono, e alla fine il cliente finale non deve altro che mettere una parabola sul tetto, delle dimensioni come quella attuale per la televisione, quindi circa 70 cm. La differenza è che sull'antenna c'è un trasmettitore, questa è la grande differenza, però alla fine nulla succede, un trasmettitore che c'entra a 36.000 km il satellite. E poi in casa c'è un modem, come il modem ADSL, qualsiasi modem, che si collega al computer, né più né meno come qualsiasi altro modem, con un cavo di rete oppure in wireless. Quindi, diciamo, fatta l'installazione io non mi accorgo di nulla. Dicevamo, è una parabola diversa, perché c'è questo trasmettitore che trasmette il segnale di ritorno, il che vuol dire che io non ho bisogno di altro, perché fino a qualche mese, anno fa, forse ancora oggi c'è qualche servizio del genere, il satellite veniva utilizzato come canale di ritorno, il download, e per l'upload veniva utilizzato il telefono, il doppino magari, con pochi dati. Esatto. Oggi io sono indipendente. Indipendente, l'unica cosa che serve è la 220 e anche perché elettrica. ci sono impianti alimentati dal solare, perché poi questo viene usato sia in città o proprio poco fuori città, dove spesso c'è il digital divide, che grazie a questo satellite è annullato, non esiste più il digital divide formalmente, sennò ovviamente viene usato anche in montagna o in zone remote, e questo è un sistema perfetto perché il segnale è democratico, è uguale dappertutto, sì. Quindi io devo solo dargli l'alimentazione, e poi ho delle prestazioni che vanno da 6 megabit, che è in download, che è il profilo d'ingresso, fino anche a 10 megabit, che è il profilo in questo momento più alto, ma sono i primi profili, il servizio è stato lanciato solo in il primo di giugno, e quindi questa è la prima ondata. Stiamo già lavorando ai nuovi profili, sia per le fasce più alte che la fascia più bassa. Sì. Dicevo prima che Il satellite è sempre stato visto per collegarsi ad internet come l'ultima spiaggia, cioè i disperati che non avevano alternative. Protezione civile. Ecco, oggi, esatto, oppure insomma case remote in campagna, esatto, in montagna, eccetera. Ma qual è oggi il vostro mercato? Cioè chi vi rivolgete? La cosa bellissima che abbiamo visto è che contemporaneamente al lancio di questo satellite anche il mercato è cambiato. Non ci sono più solo gli appassionati che avevano problemi proprio di digital divide, ma ormai internet è necessario per informarsi, per leggere il giornale, per prenotare il cinema, qualsiasi cosa. E quindi i clienti che ci chiamano sono persone comuni, sono gente normale, che magari ha l'ufficio in centro e ha internet, però a casa non è servita. E casa spesso è poco fuori città, quindi non stiamo parlando di zone veramente remote. Senta, in Italia esistono dei posti dove si può provare un servizio di questo tipo? Sì, allora noi abbiamo 1500 installatori, molti di questi hanno anche un negozio. La cosa molto bella appunto è che anche loro hanno visto il fermento che c'è sul mercato e quindi si stanno attrezzando, diventano quelli che li chiamiamo Open Sky Center, sì. Quindi in realtà oltre al sito ci sono appunto gli installatori, sul sito ci sono gli installatori di zona, uno sì. può chiamarli. Perché effettivamente uno potrebbe essere un po' sospettoso, uno dice beh, prima di fare un passo comprensibilissimo del genere, cioè, poi è vero anche che se non esistono alternative questa è un'ottima alternativa. Senta, tutto ciò, perché questa è naturalmente una delle domande che gli ascoltatori si fanno e che anch'io mi faccio, quanto costa? L'entry level costa 25 euro. Quindi siamo a prezzi, diciamo, di mercato, paragonabili alla DSL. Esatto, esatto. La parabola? La parabola noi la diamo con un contributo nostro per agevolare l'acquisto, viene venduta a 195 euro. Senta, nei progetti che... non voi direttamente, ma che Eutelsat ha, esistono altri satelliti che verranno lanciati con queste tecnologie, quindi per aumentare anche la capacità di banda, la capacità di offerta? In Europa no, esiste un progetto americano che penso vada in orbita a breve, qualche settimana, quindi noi abbiamo il primato non solo del satellite ma del servizio commerciale, infatti siamo spesso in contatto con gli americani perché loro ci osservano per capire come va. Certo, immagino che l'America sia un mercato ancora più interessante perché chissà quante sono le zone in digital divide. Decisamente, decisamente. È molto ampio, rarefatto e peraltro si accontentano anche di poco, il profilo medio di solito è un megabit, sì. Quindi vuol dire che alla fine non serve chissà cosa per navigare bene in internet, l'importante è che il sistema sia molto solido, robusto, ottimizzato, e infatti noi puntiamo molto più che sulle prestazioni di targa, sulla user experience. Come dire, invece di una macchina veloce, preferisco che tu abbia una bella strada asfaltata, che navighi bene. Senta, le faccio l'ultima domanda. Con un collegamento del genere è possibile utilizzare anche il telefono, cioè avere anche un telefono? Assolutamente sì. Una cosa bellissima, io lo chiamo il two-way con la cornetta, perché noi forniamo anche in collaborazione con un partner un numero, si chiama geografico, cioè chi è di Milano allo 02 e chi è di Roma allo 06, e quindi di fatto è un numero raggiungibile da qualsiasi altro numero, cellulare, rete fissa, con un numero fisso. Ovviamente non passa per nessun filo. Certo, infatti no, le ho fatto questa domanda perché molti degli ascoltatori hanno come esigenza quella di disconnettersi dalla rete tradizionale, quindi qua si è indipendenti. Noi siamo orgogliosissimi di questo perché annegato dentro l'abbonamento, senza prezzi, costi aggiuntivi, eccetto la telefonata, certo, ovviamente, e uno ha un servizio di telefonia a tutti gli effetti, infatti non lo chiamiamo VoIP, perché è fuorviante, si chiama telefonia via satellite, telefonia VIP sarebbe. Dire. Certo, poi satellite, poi uno potrebbe anche non accorgersi che c'è di mezzo. Insomma. No, infatti, perché ci sarà un minimo di ritardo rispetto alla telefonata tradizionale, ma penso impercettibile. Più, esatto. E ovviamente i prezzi sono molto più bassi, perché è una tecnologia, è annegato dentro il traffico IP, quindi lì ci sono delle economie di scala, sì, vantaggi. Bene, io ringrazio Walter Munarini per essere stato con noi, le auguro buon lavoro, a presto. Grazie mille a tutti. Come vi dicevo, oggi nella seconda parte della nostra puntata parleremo di Linux, naturalmente anche di open source. Faremo una puntata molto semplice per parlare di questo sistema operativo per chi naturalmente ancora non lo conosce o lo conosce poco. Le cose stanno diventando sempre più facili, ad esempio se partiamo da una delle distribuzioni Linux più famose, Ubuntu, di cui è uscita un paio di giorni fa la nuova versione, la nuova release, come dicono gli esperti, e le cose sono diventate molto molto facili. Allora, a proposito di Linux e a proposito di open source, di che cosa stiamo parlando? Ecco la scheda presentata e soprattutto preparata da Giacomo Segantini. Molto spesso si parla di open source e Linux come fossero sinonimi, ma è veramente così? Non proprio. Cominciamo dal primo termine. Con sorgente aperta si indica solitamente una categoria di software il cui codice sorgente è, appunto, aperto e visibile a tutti, ma soprattutto scaricabile e modificabile a piacimento. In questo modo, grazie alle innovazioni nelle comunicazioni portate da Internet, migliaia di sviluppatori in tutto il mondo possono collaborare al miglioramento di questo tipo di programmi. Adesso si contrappone il software proprietario, ad esempio molti programmi di Microsoft, il cui codice sorgente è gelosamente custodito dall'azienda che lo produce e solo i suoi sviluppatori ci possono lavorare. La categoria del software open source può includere programmi di qualsiasi tipo, applicazioni di produttività, ad esempio OpenOffice, un lettore video, uno dei più famosi è VLC, molto utilizzato anche in Italia, ma anche gestionali aziendali, server di posta e così via. E Linux che cos'è allora? Linux è un tipo di software open source, il più famoso di tutti. Qualcuno vi dirà che è un sistema operativo, ma neppure questo è del tutto preciso. Linux, per essere precisi, è un kernel, ovvero un cuore di sistema operativo. Anche Windows, per intenderci, ha un kernel. Ma Linux, creato dal programmatore finlandese Linus Torvalds a inizio anni 90 e derivato dai vecchi sistemi Unix, è un kernel open source e questo ne ha determinato una diffusione molto ampia. Chiunque, infatti, può prendere questo cuore e aggiungergli tutti i componenti necessari per renderlo un sistema operativo a tutti gli effetti. Quella che otterrete in gergo si chiama distribuzione Linux e ce ne sono centinaia disponibili. Tra poco le notizie di GR24. Se volete parlare con noi di Linux, ad esempio, una delle domande che mi faccio e che molti si fanno: Linux è più sicuro degli altri sistemi operativi di Windows, del macOS? Risponderemo nel corso della nostra puntata. Numero verde 800 24 00 24. Potete scriverci una email oppure andare su Facebook nel nostro profilo o un SMS 349-238-6666. Ci risentiamo tra qualche minuto. 2024. Riprende questa puntata di 2024, vi ricordo che sarà disponibile il file MP3 per la versione podcast poco dopo il termine della nostra trasmissione. Un consiglio che diamo tutte le settimane, quello appunto di abbonarsi gratuitamente al servizio podcast di Radio 24 e naturalmente scaricare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Io sono Enrico Pagliarini, in regia oggi c'è Pietro Lacorte, Stefania Tagliaferri ci aiuta in redazione e oggi parliamo di Linux, di open source, naturalmente per cercare di capire di che cosa stiamo parlando e per parlare a chi di queste cose non ci capisce nulla, anche io non sono un grande esperto, allora vi invito a farci le domande, magari le più strane, disparate su questo sistema operativo alternativo, e poi capiremo alternativo a che cosa. Il nostro numero verde è 800 24 00 24. Saluto Davide Ferrari, che è un sindaco di Galliate, che si trova in provincia di Novara. Benvenuto a 2024. Buongiorno, ciao Enrico. Uno si domanda, ma perché un sindaco di un paese abbastanza piccolo, quanto grande o piccolo è Galliate? 15.000 abitanti. Quindi insomma medio paese. Perché il sindaco di Galliate mi ha scritto e in realtà lui voleva mandare avanti i chiamiamoli suoi ragazzi del Linux Group di Galliate, ma io invece ho voluto il sindaco perché mi è sembrato interessante che un sindaco di un medio paese sponsorizzi gratuitamente, cioè favorisca il Linux Day. Ricordiamo che la prossima settimana in tutta Italia ci sono una serie di manifestazioni che io vi invito a seguire su linuxday.it. Scegliete quella più vicina a voi, sono manifestazioni di approfondimento, anche banalmente ci sono i famosi install party dove uno può portare un computer e farsi installare Linux e capire quanto è facile questo sistema operativo. Perché il sindaco di Galliate mi ha scritto e soprattutto perché una amministrazione supporta questa iniziativa? Ma per diversi motivi. Il primo è perché a Galliate c'è questo Linux User Group che quest'anno compie 10 anni. Il secondo un po' per passione, perché io professionalmente vengo dal mondo della tecnologia e quindi insomma, mi sono portato per queste cose. Il terzo per cultura, perché credo che Linux sia comunque, e l'informatica in generale, sia un fattore di cultura oltre che di passione. E il quarto perché come amministrazione pubblica intravediamo un'opportunità che abbiamo tradotto nell'aiutare Fabio, questo il presidente del Linux Lab di Gagliate, a realizzare questa iniziativa. A realizzarla. Oltre ai 10 anni che voi festeggiate, ricordiamo che Linux, questo sistema operativo, festeggia i 20 anni, quindi sono 20 anni che esiste questo sistema operativo, donato alla comunità, potremmo dire, da Linus Torvalds, che è un programmatore finlandese. L'atteggiamento, secondo me, corretto per affrontare questo tema è un atteggiamento molto equilibrato, per dire: beh, c'è questa opportunità molto interessante dell'open source di Linux che va affrontata appunto con equilibrio, perché non è detto che sia sempre meglio. Sicuramente uno dei grandi vantaggi di Linux è che in molti casi si risparmia, e io immagino che voi guardiate, come pubblica amministrazione, a questo anche come motivo di risparmio. Sì, assolutamente. Nel settore informatica del comune che ho l'onore di amministrare, già c'è una tendenza a sostituire i sistemi commerciali, soprattutto lato server, con dei sistemi open source. Quindi la posta nel comune gira su sistema open source, l'intranet, eccetera, eccetera. Un po' diverso il discorso sui client, quindi sui PC che usano i dipendenti comunali, dove il discorso è un pochino più complesso, ma diciamo che quello che vorremmo fare è adottare sempre di più questa tecnologia open source su tutti i sistemi del comune, anche perché per ogni client che si va a sostituire con una tecnologia del genere si risparmiano dei soldi, sì, in licenze. Anche perché Linux normalmente spesso gira anche su computer un po' vecchi, quindi insomma, magari uno non è... C'è chi potrebbe criticare e dire: ah, ma così non si fa girare l'economia, però ci sono, è proprio una filosofia diversa, e magari parleremo anche di questo. Giuseppe Paternò è responsabile tecnico in un'area che le grandi multinazionali chiamano EMEA, detta l'italiana, di Canonical, che è una multinazionale che è specializzata in open source e in Linux. Benvenuto Paternò. Grazie, buongiorno a tutti. EMEA sta per Europe, Middle East and Africa o Asia? Africa. C'è qualcuno che dice Asia, dipende dalle zone. Tu viaggi molto perché appunto ti occupi di tutti questi paesi. È corretto dire che Linux fa risparmiare? Sì, diciamo che in generale Linux fa risparmiare le aziende, perché appunto, come diceva giustamente il sindaco, ci sono dei costi di licenze a diversi livelli, quindi questo sicuramente Linux può aiutare a diminuire i costi legate a queste, diciamo, problematiche. La vostra società è famosa per una distribuzione Linux, la più nota e forse anche la più facile da utilizzare, che si chiama Ubuntu. Il 13 ottobre è uscita la versione 11.10, che è gratuita. Assolutamente sì. Uno potrebbe domandare: ma perché è gratuita? Cioè, come guadagnate voi? Ok, noi guadagniamo grazie appunto a due cose fondamentali. Da una parte l'OEM, quindi chi fa veramente i computer, ad esempio Dell, HP, Lenovo, giusto per citarne alcuni, ci pagano per portare Ubuntu sui loro sistemi, sui loro netbook. Quindi esistono dei computer con Linux installato? Assolutamente sì, poi ne parliamo magari più in dettaglio. Dall'altra parte ci pagano le aziende per avere un supporto, per seguirli, diciamo, l'assistenza, diciamo così. Sì, stiamo parlando di una multinazionale, perché una delle cose che vorrei far passare oggi è che quando parliamo di Linux e di open source non stiamo parlando di un mondo di ricercatori pazzi, super appassionati, di volontari. Stiamo parlando anche di un settore che è un grande business e può essere anche un grande business per la nazione. Sono le 16:15, la viabilità riprendiamo tra poco. 2024. Stiamo parlando di Linux e di Open Source a 2024. Vi ricordo il nostro numero verde per chiamarci in diretta: 800 24 0024. Paternò, parlando di Ubuntu, che è, dicevo, la distribuzione Linux più famosa, io un po' l'ho provata, ma effettivamente molti dicono è diventata molto semplice. Ma uno dei problemi che fino a qualche tempo fa c'era con Linux è che magari non riuscivo a utilizzare la mia stampante, non vedeva il modem. Un ascoltatore ci ha anche chiesto: ma è possibile utilizzare le chiavette per collegarsi ad internet? Cioè, oggi le cose come sono cambiate, come stanno? Allora, le cose sono completamente cambiate. È cambiato totalmente Linux, è diventato molto semplice. Diciamo che quasi tutte le stampanti in commercio, gli scanner e le chiavette, le chiavette USB, quelle che ci permettono di collegarci ad internet, sono compatibili, tant'è che per esempio anche alcuni stessi operatori telefonici ci chiedono di portare le loro chiavette per farlo funzionare su Linux. Anzi, il paterno mi ha portato un computer portatile, non me l'ha regalato, poi lo porta a casa, ma che viene lanciato da Vodafone assieme a Canonical in Sudafrica per il momento, giusto? Esattamente, inizierà col Sudafrica, sarà ovviamente in India e in altre parti del mondo. In Italia, al momento che io sappia, non è previsto il lancio. Però in Italia, no, questo è stato per dire che gli operatori telefonici, o comunque un grande operatore telefonico come Vodafone, guardano con attenzione questa evoluzione. A proposito di disponibilità di computer, perché un altro dei problemi è: io vado in negozio e non ci sono i computer con Linux. È vero o no? È vero e non è vero, nel senso che tendenzialmente a catalogo quasi tutti i produttori di computer consumer hanno delle macchine con Linux. È sempre un discorso di domanda offerta, siccome la gente poco conosce Linux, magari quando vanno in negozio non c'è perché nessuno glielo chiede. Sì. In realtà però alcuni produttori, in particolare mi risulta Asus in Italia, ha già cominciato sulla grande distribuzione con alcune catene specializzate nell'elettronica. Quindi, la domanda delle domande potrebbe essere: ma perché io dovrei usare Linux quando con il mio Windows o col mio Mac OS mi trovo benissimo? Beh, è assolutamente una domanda lecita. Ci sono tanti vantaggi nell'usare Linux, principalmente la facilità d'uso, che ormai siamo veramente a dei livelli ancora più facili di Windows, e la sicurezza intrinseca del sistema Unix e del sistema Linux, che è paragonabile ad alcuni standard militari. Quindi, cioè, anche l'utente di casa che tranquillamente installa magari per accedere a internet ha un sistema di sicurezza paragonabile a un sistema militare. Poi sulla sicurezza diciamo qualche cosa, perché ieri paterno mi ha un po' sorpreso, perché ha detto: ad esempio su Linux non esistono i virus. E io mi sono fatto un balzo sulla sedia e detto: ma come, non esistono i virus? Poi ne parliamo. Saluto il professor Raffaele Angelo Meo, che è docente di sistemi di elaborazione delle informazioni al Politecnico di Torino. Benvenuto professore. Buongiorno. Lei per alcuni rappresenta una delle anime dell'open source in Italia, ha collaborato, ha partecipato anche alla stesura di leggi del codice della pubblica amministrazione digitale. Sarebbe importante per alcuni l'utilizzo di questo mondo dell'open source anche all'interno della pubblica amministrazione. Ci faccia capire qual è lo stato dell'arte. La pubblica amministrazione, prima di tutto, ha capito quali vantaggi possono esserci dall'utilizzo di questi sistemi e qual è la situazione in generale? Dunque, direi che il primo vantaggio, parlando di pubblica amministrazione, soprattutto in un momento come questo, di crisi dal punto di vista economico, il primo vantaggio è chiaramente di tipo economico, nel senso che il software libero di norma non costa, o meglio, in quasi tutte le distribuzioni appare gratuito. Incidentalmente c'è una legge che è il frutto del lavoro di una commissione che io stesso avevo presieduto negli anni 2002, 2003, 2004, e che aveva prodotto una legge che dovrebbe essere rispettata, che è volta tutto sommato proprio all'obiettivo del risparmio. Questa legge si chiama 82/05 ed è più nota come codice dell'amministrazione digitale. All'articolo 68 questa legge dice: in primo luogo, le pubbliche amministrazioni, quando acquisiscono un programma informatico, devono farlo dopo aver valutato in modo comparativo, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista economico, le soluzioni proprietarie e le soluzioni invece libere. La valutazione deve essere omnicomprensiva, nel senso che deve tener conto di tutti gli aspetti del costo, quindi non soltanto dei costi delle licenze, ma anche dei costi delle attività di manutenzione, installazione, personalizzazione del prodotto e così via. Incidentalmente, parentesi, osservazione mia personale in questo momento, dal punto di vista del sistema economico nazionale, non è la stessa cosa spendere dei soldi per l'acquisizione di licenze che poi varcano l'oceano e che quindi rappresentano una perdita secca nella bilancia commerciale del paese, e spenderli invece per attività di assistenza tecnica, personalizzazione, eccetera, che invece è spesa sul territorio nazionale e quindi rappresenta benzina nel motore dello sviluppo economico locale e soprattutto rappresenta un'opportunità di crescita, di acquisizione di cultura e così via. Sono assolutamente d'accordo, mi inserisco nella sua parentesi perché questo è un punto fondamentale, visto che quando parliamo di tecnologia parliamo di un settore che importa un sacco di cose. Quello che dice il professore è uno dei punti che soprattutto la pubblica amministrazione e soprattutto in un momento come quello che stiamo passando andrebbe tenuto in considerazione. Ma a questo punto le faccio una domanda: cosa succede in realtà, almeno dal suo punto di vista, dal suo osservatorio? Nella realtà il nostro è un paese di leggi severissime temperate dalla loro inosservanza, e direi che l'articolo 68 della legge 82/05 non fa eccezione, anzi è forse una delle leggi più ignorate, non dico non osservate, addirittura ignorate, nel senso che gli operatori della pubblica amministrazione con i quali spesso parlo ignorano addirittura l'esistenza di questa legge, per cui una delle difficoltà è proprio rappresentata dal fatto che le opportunità rappresentate dall'avvento del software libero non sono colte per ignoranza non solo della situazione tecnica ma anche della situazione legislativa. Certo, non si conosce, quindi non si adotta quindi una soluzione. Quindi non si conosce e quindi non si osservano. Certo. Rimanga con noi, professore. Sentiamo Marco che ci telefona dalla provincia di Lucca. Buongiorno. Sì, buongiorno. Ascolti, io sono pienamente d'accordo con quello che diceva il vostro ospite, che sono un professionista e avendo più computer avrei scelto sicuramente di passare a software libero, quindi da costo se non gratuito, molto basso. Il problema è che dovendo lavorare spesso con amministrazioni pubbliche, vedi comuni, province, catasto, regioni o enti vari, loro mettono a disposizione di noi professionisti, io sono un geometra, software che gira esclusivamente sotto Windows. Tra le altre storie ci mettono a disposizione in linea documenti, modelli, quasi esclusivamente in formato Word, volendo non si trova questo, e provando ad aprire tali modelli e documenti con programma libero, tipo OpenOffice o Libre o programmi simili, non ottengo una formattazione perfetta, ma si perdono moltissimo tempo, se non ore, a volte per renderli simili a quelli che loro danno. Quindi ci si trova, volente o no, costretti a utilizzare, se non solamente Windows, al limite i programmi del Mac. Non c'è modo di utilizzare un Linux per lavoro, almeno io per ora ho trovato molto difficile questa cosa, non ho trovato software di pari livello. In base alla sua esperienza, certo. Questa cosa risulta effettivamente anche a noi. Marco, io la ringrazio per averci chiamato e tra poco continueremo proprio su questo punto, sentendo anche un sindaco, visto che oggi abbiamo il sindaco di Galliate con noi, per capire se, almeno dal suo punto di vista, questo è vero oppure no. Sono le 16:27 minuti, adesso c'è un po' di pubblicità, riprendiamo tra poco. 2024. Le 16:30, questo è 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Oggi parliamo di Linux. Avete sentito che la pubblica amministrazione dovrebbe, sottolineo, mettere a disposizione degli utenti, cioè dei cittadini, sistemi aperti e non proprietari e soprattutto documenti lamentate, dico, la pubblica amministrazione, ad esempio quando mettono a disposizione i Word, almeno un PDF sarebbe la regola, sarebbe auspicabile. Il problema che è stato sottolineato dal nostro ascoltatore, che professionalmente a volte è costretto a utilizzare cose proprietarie perché la pubblica amministrazione va contro la legge e non permette di interfacciarsi con sistemi open source. Risulta anche a Davide Ferrari, che è sindaco di Galliate? Sì, direi che il nostro ascoltatore ha centrato in pieno il problema che noi come comune, e quindi credo ogni amministrazione pubblica, ha di convertire i client, cioè la gran parte del parco macchine del operanti nel comune, verso l'open source, perché non c'è compatibilità tra formati, ma anche perché molto spesso è la stessa amministrazione centrale a darci delle interfacce obbligatorie che sono su formati proprietari, e quindi risulta difficile la loro conversione, è impossibile utilizzarle. Sì. Professor Meo, è giusto e corretto quello che ho detto, cioè che il cittadino deve lamentarsi in questi casi, almeno il cittadino, poi naturalmente il cittadino in alcuni casi è anche azienda. Certo, che parliamo ora della violazione di un altro articolo, di un altro comma dell'articolo 68, cioè del codice dell'amministrazione digitale, quello che dice che le pubbliche amministrazioni, nella predisposizione o nell'acquisizione di programmi informatici, sto leggendo il testo della legge, adottano soluzioni informatiche che assicurano l'interoperabilità e la collaborazione applicativa e che consentono la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto. Però le faccio una domanda, siamo sicuri che sempre in assoluto esiste una soluzione open source migliore rispetto a quelle proprietarie? Ad esempio, il caso, noi a Radio 24 abbiamo un software di produzione radiofonica che gira su Windows e quindi dobbiamo utilizzare quel sistema, anche se poi tutti i nostri server vanno e funzionano su Linux. Il nostro tecnico Sandro Fortunati vive sempre parlando con Linux. Professore? Direi che io ho l'impressione, sulla base della mia esperienza professionale, che è limitata, credo che Paternò possa dirne molto di più, io ho l'impressione che la soluzione tecnologica, ossia lo specifico prodotto che risolve un problema, esiste sempre nel mondo del software libero, e qualche volta esiste nel mondo del software libero e non esiste nel mondo del software proprietario. Pensiamo ad esempio ad Internet, ecco, che è l'esempio più clamoroso. Ah sì, certo. E Internet è un fenomeno, è un insieme di programmi costruiti esclusivamente o quasi esclusivamente su prodotti di software libero. Sì. Tra poco sentiremo anche Paternò, visto che è stato tirato in ballo. Su questo io questa mattina ho fatto una domanda a Renzo Turato, che è il capo del Dipartimento per la digitalizzazione e l'innovazione della pubblica amministrazione, partendo proprio da questa considerazione, cioè alcune pubbliche amministrazioni, perché sono altre le pubbliche amministrazioni con cui ho parlato in questi giorni o di cui ho letto, lamentano proprio questo fatto, cioè la difficoltà a volte di interfacciarsi con altre pubbliche amministrazioni perché è obbligatorio l'uso di alcuni applicativi proprietari. Guardi, a me sembra un po' strano tutto questo, perché le pubbliche amministrazioni, al di là del fatto che l'invito e l'obbligo ad usare i sistemi di comunicazione che si parlano tra loro è previsto dalla norma, ma esiste anche un'infrastruttura nazionale che si chiama Sistema Pubblico di Connettività, che consente alle pubbliche amministrazioni di esporre i dati in modo leggibile per tutti, indipendentemente dall'applicativo che usano. Quindi mi sembra un po' strano queste risposte che vengono date dalle amministrazioni locali. I dati delle pubbliche amministrazioni centrali sono, per definizione, proprio perché all'interno di questo sistema pubblico di connettività, sono visibili e interfacciabili indipendentemente dai sistemi proprietari o meno che vengono usati. Al di là della norma che esiste, insomma, il codice dell'amministrazione digitale in particolare, la situazione attuale qual è? Cioè c'è una tendenza ad utilizzare sistemi open source, anche a migrare verso sistemi open source, magari anche sfruttando le competenze di università, CNR, aziende che la pubblica amministrazione ha anche al proprio interno per sviluppare soluzioni di questo tipo? Guardi, ci sono diverse amministrazioni centrali che già stanno usando sistemi open source. Si stanno facendo a livello centrale, ci sono siti, ci sono portali, ci sono applicazioni via web, sia nel mondo giustizia, nel mondo INPS, nel mondo INAIL. Ci sono sistemi telematici di pagamento che vengono fatti con soluzioni open source, ci sono sistemi di conservazione sostitutiva, cioè c'è una tendenza e un uso abbastanza generalizzato, non totalizzante, non completo, ma ci sono abbondantissimi esempi di soluzioni che vengono sviluppate in questo ambito. Del resto la stessa Consip, che è l'acquirente unico, diciamo, per la pubblica amministrazione centrale, prevede sempre con maggiore frequenza l'utilizzo di soluzioni di questo tipo. Quanto alla questione di università, CNR, SOGEI, le possibilità che questi mondi, che questi soggetti possono offrire, va bene, forse però è il caso che ognuno faccia il proprio mestiere, cioè che l'università faccia ricerca, che CNR faccia ricerca, che SOGEI faccia da centro di informatica per la pubblica amministrazione. Ovviamente poi se ci sono possibilità di utilizzo di soluzioni lì sviluppate in altri contesti, ben vengano, ma non dimentichiamo che esiste anche un mercato. Sì, lei è d'accordo con chi sostiene che l'utilizzo di soluzioni open source sia un risparmio? Cioè, è vera questa affermazione o andrebbe guardata un po' con sospetto? No, non va guardata con sospetto, non esiste mai la verità. In realtà l'open source può essere una fonte di risparmio, perché appunto facendo risparmiare sui brevetti, sulle licenze, ovviamente procuro risparmio. È pur vero però che non è necessariamente vero che ciò accada, perché poi il grosso delle spese sostenute dalle amministrazioni per l'utilizzo di applicativi e di soluzioni non dipende solo da quello, dipende anche da come dalle spese per l'adattamento di questi sistemi, di queste piattaforme, per la gestione di queste piattaforme. Là molto dipende non diciamo dal codice in sé, ma dipende da quello che gira attorno al codice, dalla documentazione. Pensi solo ai manuali di utilizzo, alle specifiche di adottate per diverse soluzioni. Voglio dire, la componente licenza è una delle componenti, non è l'unica. Sono le 16:38 minuti, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24. Adesso sentiamo alcuni degli ascoltatori, perché naturalmente abbiamo parlato della pubblica amministrazione, dei vantaggi che la pubblica amministrazione potrebbe avere, dovrebbe avere, e anche degli obblighi che ci sono. Sentiamo Massimo che ci chiama dalla provincia di Siracusa. Benvenuto Massimo, buongiorno. Grazie, buonasera. Il mio intervento era semplice, volevo solo sapere se esistono al giorno d'oggi già dei tablet in vendita che montano dei sistemi operativi appunto open source. Domanda chiarissima, molto semplice, perché effettivamente, come abbiamo detto prima, chiedendo a Paternò, esistono dei computer portatili che hanno montato a bordo Linux, ed effettivamente chiedendo esistono. Tablet, beh, sicuramente Android è basato su Linux, giusto? Questo è corretto, nel senso che Android pochi lo sanno, ma in realtà dietro il marchio di Android c'è in realtà un cuore di Linux. Esistono anche dei tablet basati su Linux, ok, sono però poco diffusi proprio per lo stesso, diciamo, per gli stesse ragioni. Motivi di cui prima, ricordi qualche nome? Sì, io per esempio c'è un'italianissima che si chiama Ecore, che ha dei tablet basati su Ubuntu. È tutto fatto in Italia, quindi per il mercato e comunque i soldi, diciamo così, rimangono in Italia e producono dei tablet. Esistono anche in Germania altri, che per esempio il WeTab, che comunque è basato su Linux. Dunque, una domanda sulla sicurezza, che è un argomento, è un elemento molto importante, cioè c'è chi dice, chiedo conferma a Paternò, che Linux è più sicuro. E poi, perché tu mi hai detto che non esistono i virus, che è un elemento a proposito di sicurezza importante? Sì, senza entrare troppo nello specifico, diciamo che tutto nasce da come nascono questi due sistemi operativi, Windows e Unix, di cui Linux è principalmente un dialetto. Il problema appunto è che i virus non sono attaccabili su Linux per delle ragioni tecniche. Linux è nato per gestire più utenti. Siccome i programmi appartengono all'utente di sistema, per cui tu non sei un sistema operativo, andiamo non puoi troppo toccarlo. Sul complicato. Diciamo che intrinsecamente, cioè il sistema è progettato in modo che i virus non riescono ad attaccarlo. No, si autoprotegge. E, ecco, però in generale è corretto dire che è più sicuro? In generale diciamo di sì, ovviamente dipende sempre come uno lo utilizza e come diciamo si va a interfacciare verso la rete internet eccetera, perché se qualcuno ti invia una mail alquanto sospetta è il caso di non aprirla comunque. Certo, questo vale in generale. Questo sì, vale sì, in sì, generale, con Linux si hanno meno preoccupazioni. Sì, diciamo. Sì, sì. Senti, se uno ha un computer tradizionale normale con o macOS o Windows, come fa ad installare Linux? Semplicemente o scarica un CD e si fa il CD, oppure si, tranquillamente con la stessa procedura si fa una chiavetta USB e lo installa dalla chiavetta USB. Dalla chiavetta USB, cioè c'è un file, ci clicca sopra. Sì, c'è una piccola procedura online estremamente semplice, cioè passo passo guidato sul nostro sito di www.ubuntu.com. Sulla sezione download ti spiega se sei un utente Linux o sei un utente Mac come crearti il CD, ecco, poi, o l'USB. Uno potrebbe dire, vabbè, ma se io ho già Windows o macOS, quali sono i vantaggi? Beh, ad esempio, uno dei vantaggi è che si trova tantissimo software gratuito, giusto? Sì, stiamo parlando di parecchie decine di migliaia di software libero. Ad esempio, uno dei più famosi, che ha citato anche il sindaco di Galliate, che ha detto e ha promesso di installare nei computer, cari cittadini, se non lo promette tirategli le orecchie, o tirategli i pomodori, OpenOffice, una suite da ufficio gratuita. Assolutamente, questo addirittura viene già installato, quindi di default uno prende Ubuntu, ha già dei programmi di produttività, ascoltare la musica per esempio, vedere dei video, addirittura fare dei video se uno è appassionato magari di fotografia o di video. Ah giusto, cito Audacity, che è un editor audio molto famoso che usiamo anche a Radio 24. Beh, lo utilizziamo, caro Pietro. Noi giornalisti, quando giriamo con i nostri computer, usiamo Audacity. Daniele da Trento, buongiorno. Buongiorno. Prego. Sì, avevo una domanda. Stavo seguendo il vostro programma, appunto, su questo... Cioè, faccia la domanda. Scaricare... dunque, io volevo capire. Io tutte le volte che installo un software... comunque c'è, come dire, una licenza che devo accettare, che solitamente mi dice che non posso copiare, non posso, comunque devo pagare qualcosa per ottenere software, eccetera. E volevo capire, ma quindi Linux è senza licenza? Domanda chiarissima. La licenza è quella famosa cosa che ci appare sullo schermo e sulla quale tutti cliccano accetto, cioè senza capire che cosa c'è dietro. Paternò, Linux non ha licenza, quindi non c'è da accettare nulla? Questo non è corretto, nel senso che Linux e molti dei programmi open source hanno una licenza, solo che la licenza, a posto di dire quello che non puoi fare, ti dice quello che devi o puoi fare. Quindi in questo caso la licenza ti dice puoi copiarlo su tutti i computer che vuoi, per esempio, oppure ti invita a darlo ai tuoi amici. Certo, è una prospettiva diversa. È una prospettiva diversa. Adesso ci fermiamo perché ci sono le notizie che arrivano da strade e autostrade. Vi ricordo il nostro numero verde 800 24 0024 tra poco. 2024. Riprende 2024, la nostra ultima parte. Abbiamo parlato di Ubuntu, che è una parola paternò in Swahili o Zulu. In lingua Zulu, se non sbaglio. Sì, è comunque una lingua sudafricana. Sudafricana. È uscita da poco la versione 11.10, un sistema operativo molto semplice, molto facile. Abbiamo detto che è gratuito. È stato sviluppato da... è corretto dire sviluppato da Canonical, cioè che sviluppa Ubuntu? In realtà che è una delle tante distribuzioni di Linux, una delle tante versioni. Per essere un pochino brevi, Canonical è una delle aziende o delle persone che contribuisce allo sviluppo di Ubuntu. In realtà dietro Ubuntu, dietro lo sviluppo di Ubuntu c'è una comunità in cui Canonical presta, tra virgolette, dei talenti a tempo pieno a lavorare sulla distribuzione. A questo punto uno potrebbe domandarsi, visto che Canonical è una società che è inutile, è una multinazionale, perché dovrebbe fare tutto ciò? Diciamo che una cosa simile la fanno molte grandi corporation, IBM, se non sbaglio anche Oracle, quindi tante aziende investono denari per lo sviluppo di software open source. È corretto. Che non costa nulla. Quindi però sì. Dove ci guadagnate? Beh, noi ci guadagniamo, come tutte le aziende che contribuiscono su Linux, ci guadagniamo sui servizi. Ok, quindi chi adotta software libero non ci guadagna sulla licenza del software, ma ci guadagna sui servizi che ci stanno accanto. Ok, per quanto riguarda Canonical, abbiamo due tipi di servizi. Da una parte, appunto, quello, come accennavamo, un produttore hardware vuole portare sul suo computer Ubuntu, facciamo il servizio appunto di ingegneria di portare Ubuntu sui loro sistemi. Dall'altra parte abbiamo un supporto tecnico, quindi forniamo un servizio di supporto tecnico a tutte quelle aziende che desiderano avere un supporto, quindi il supporto non è obbligatorio, l'azienda può scegliere o non scegliere di prendere questo servizio. Appunto offriamo i servizi di supporto e quello effettivamente su cui facciamo... Sì. Quello del modello di business è un aspetto molto importante. Allora vorrei chiedere al professor Raffaele Angelomeo del Politecnico di Torino di tornare e risottolineare questo aspetto, che è un cambiamento rispetto al classico mercato del software che conosciamo, che è già molto sviluppato, perché ricordiamo che soprattutto in ambito aziendale buona parte del software che gira ad esempio sui server è Linux, quindi il mercato esiste già ed è un mercato piuttosto ricco in tutto il mondo. Però professore, come cambia il modello di business? Dunque, cambia radicalmente, e io penso, ho l'impressione che proprio l'avvento di internet ci stia dimostrando che il nuovo scenario scientifico e tecnologico che si sta manifestando per l'avvento dell'informatica nel mondo stia cambiando radicalmente le regole del gioco. Faccio un esempio. Prima, non osate interrompervi perché stavate dicendo cose molto interessanti, prima avete parlato dei volumi di software libero. Bene, c'è un'iniziativa di Google chiamata Kruger, volta a raccogliere il patrimonio di software libero esistente sulla rete. Parliamo di 100 milioni di pagine, quindi parliamo di miliardi di istruzioni sorgenti. Nessuna società privata, per quanto potente, sarebbe mai in grado di buttare in campo un volume di conoscenze così forte come quello rappresentato dalla comunità mondiale. Cioè, da una parte abbiamo poche migliaia di ricercatori che lavorano presso le multinazionali che producono software anche di grande successo, dall'altra parte abbiamo milioni di programmatori. La sola Debian contava qualche anno fa 300.000 programmatori, e questo, secondo me, da questo punto di vista il software libero è anche un simbolo di un modello dello sviluppo industriale ed economico basato non più sul tradizionale concetto della competizione, come ci recitano i grandi guru dell'economia, ma basato sulla collaborazione, una collaborazione a livello di singoli, a livello di imprese e così via. Sì. Quindi bisogna battere il concetto. Sì. Che è ormai dominante, ma ingiustamente, della proprietà intellettuale. Qualunque nuova conoscenza oggi è il frutto di milioni di conoscenze progresse, e quindi la proprietà intellettuale ha perso del tutto il suo significato. Ha fatto bene a sottolineare, a risottolineare questo aspetto, perché è un aspetto fondamentale, anche se poi magari l'utente finale potrebbe dire: ma io voglio qualche cosa che funziona e non mi interessa il principio che c'è dietro. Io sono in parte d'accordo con questa affermazione, però oggi abbiamo detto, e probabilmente la prossima settimana al Linux Day molti potranno verificare con mano, che è anche tutto molto, molto semplice, molto facile. Paternò, giusto per avere un'idea, esiste anche per voi un grande mercato già nelle aziende? Cioè, stiamo parlando di un business piuttosto interessante. Sì, assolutamente. Per noi il business sulle aziende ha un determinato valore. abbiamo delle grosse già multinazionali che hanno deciso di adoperare Linux sia sulla parte client che sulla parte server. Giusto per dare dei numeri, così un'ultima assicurazione europea ha preso 50.000 postazioni di lavoro con Ubuntu sulla parte desktop. Beh. Per quanto riguarda la parte server, giusto per dare un'idea agli ascoltatori, Linux, se passatemi il termine, se la batte con Windows quasi al 50%. Sì. Un ascoltatore ci ricorda che ad esempio il comune di Monaco di Baviera, lui scrive, sta sostituendo, ma io direi addirittura ha sostituito buona parte dei client, dei PC, portandoli su Linux, su Ubuntu. È corretto, sì, stavo per intervenire, infatti è un nostro cliente. Su Ubuntu. Sentiamo Riccardo che ci chiama dalla provincia di Lodi. Buongiorno Riccardo. Sì, buongiorno, da Borghetto Lodigiano. Volevo dire, io sono un tecnico, volevo dire solamente una cosa, il problema dei PC senza licenza. Io ho un negozio, da me se uno viene e dice guarda voglio mettere Linux, problemi non ce ne sono, però il consumatore medio che va in un centro commerciale si trova veramente a disagio perché non esistono computer che non hanno la licenza. Che non hanno il sistema operativo già installato. Insomma. Sì, non hanno il sistema operativo. Ricordo che nel 2008 c'è stata una sentenza di un cittadino che voleva acquistare un notebook e ha fatto causa a una nota marca di notebook perché non è riuscito a trovare il PC senza licenza. Sì. Grazie. E l'ha vinta, se non ricordo male. Quella. Sì, l'ha vinta. Infatti potete, esatto, pretendere anche questo. Vorrei concludere, abbiamo un minuto, visto che abbiamo iniziato con il sindaco di Galliate che è stato il primo quest'anno. Io ricevo sempre molti inviti per il Linux Day, però voi siete partiti molto presto, perché mi sembra in luglio addirittura mi avete scritto. Allora, la prossima settimana cosa succede? Almeno a Galliate, poi molte delle cose che capitano lì capiteranno in tutta Italia con il Linux Day. Certo, a Galliate, provincia di Novara, nel Castello Sforzesco, quindi facendo un abbinamento moderno antico, ci sarà questo Linux Day insieme a tutti gli altri centinaia di eventi in tutta Italia, diviso in due parti, una diciamo più per gli addetti ai lavori, quindi diciamo per più smanettoni, tipicamente appassionati di tecnologia, e la seconda parte invece dove avremo ospiti importanti nomi dell'IT, tra cui Google, Samsung e lo stesso Giuseppe Paternò il professor Meo, dove parleremo di come l'open source entra nella vita di tutti i giorni, non attraverso un computer, ma attraverso smartphone, attraverso tablet, attraverso altri device. Benissimo, c'è anche qualcosa da mangiare, giusto? C'è un aperitivo offerto dal nostro presidente del Linux User Group, Fabio Mora. Benissimo. È sempre importante mettere anche, oltre che gli approfondimenti tecnologici, anche qualche cosa da mettere sotto i denti. Ringrazio il professor Meo, a presto, buon lavoro professore. A voi, grazie dell'invito, buongiorno. Ringrazio Davide Ferrari, sindaco di Galliate, e anche Giuseppe Paternò per essere stato con noi, buon lavoro, e naturalmente, visto che la tua area di competenza è molto ampia, buon viaggio. Grazie. Grazie anche a Pietro Lacorte che si è occupato della parte tecnica, Stefania Tagliaferri in redazione. Tra poco sarà disponibile la versione podcast del nostro programma. Io sono Enrico Paglierini, ci risentiamo la prossima settimana sempre su Radio 24 per parlare di come la tecnologia ci cambia la vita. 2024.